Oggi a te no, no no no, non agito il coltello se oggi a te no. Non sopporto, ci minaccino io oggi a te per farmi fuori. Non mi serve altro se oggi a te fatti miei se non mi serve altro. Oggi a me no, no no no, non agiti il coltello se oggi a me ma non sopporti, ci minaccino. Oggi a me per farti fuori, non ti serve un'arma se oggi a me fatti nostri, non ci serve altro. 10.000 voci tu mi dici di calmarmi. Voglio tenere il tuo amore ma con entrambe le mani. Sul letto sbagliato ma sul lato che mi piace. 10.000 voci tu mi dici di calmarmi. Ogni volta che non ti sento, la tua voce mi brucia dentro. So che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Non voglio armi, tu mi tagli già abbastanza i polsi e sai ascoltarmi, come se conoscessi i miei mostri senza gli altri. Cerco pace per restare calma, il tuo amore è la mia arma, solo così sono salva. La mano che impugna un cuore fa da raggio che sta intorno, il cielo è solo un tetto bucato, l'arma con cui resto da solo. Pagine vuote che provo a riempire, ho fatto un casino senza farmi sentire. Non sopporto che ci minaccino. 10.000 voci tu mi dici di calmarmi. Cuori troppo grandi per poter stare lontani. Ogni volta mi rigiro dal tuo lato preferito. In un attimo è mattino, in un attimo è mattino. Ogni volta che non ti sento, la tua voce mi brucia dentro. So che non è lo stesso, ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso. Ancora ci penso, ma è sempre dal male che si trova un senso.